A bordo campo di Dario Ricci. Ospite d'eccezione oggi a bordo campo, Tania Cagnotto, campionessa emblema dello sport azzurro e soprattutto chiaramente dei tuffi, unica atleta italiana inserita nel team Visa che si sta preparando per i Giochi Olimpici di Londra 2012 e oggi ospite speciale di A Bordo Campo. Benvenuta Tania. Buonasera. Allora Tania, innanzitutto come stai? Perché l'ultima volta che ti abbiamo visto con uno splendido bronzo al collo a Shanghai, con un polso ancora traballante, poi un sesto posto nel sincro, insomma quel mondiale di Shanghai è stata una piccola grande avventura sportiva e credo anche umana, vero? Sì, sicuramente è stato un mondiale particolare, fino all'ultimo non sapevo se riuscivo a partecipare, sono arrivata lì con zero aspettative perché per me era già un obiettivo parteciparci, quindi la medaglia da un metro è stata proprio inaspettata e quasi un miracolo perché non ci credeva nessuno e neanche io. Il sesto posto del sincro, anche sono contenta perché comunque nel sincro si sente ancora di più la mancanza d'allenamento perché lei era arrivata in forma smagliante come dovevo arrivarci anch'io e invece si è ritrovata una zoppa vicino che spingeva. L'altro Francesca Dallapè, ricordiamo l'altra metà della coppia. Quindi nel sincro si è visto qualche problema, insomma lei spingeva di più. Io facevo proprio fatica ad andarle dietro, quindi il sesto posto era giusto così. E poi anche dai 3 metri è stata un po' una sorpresa entrare ancora in finale perché appunto sono arrivata lì che avevo quantità di tuffi, cioè pochissimi, alle spalle, quindi ho fatto la gara solo di testa perché di fisico ero debole e poco allenata, però sono contenta comunque che sia andata così e si vede che appunto ogni tanto quando salti senza pressione le cose vanno molto meglio. Paradossalmente la necessità di concentrarsi su questo infortunio, ricordiamo, è stata investita in motorino verso la palestra l'11 maggio, quindi proprio a ridosso del mondiale, può aver alleggerito quello che è proprio l'aspetto psicologico? Sì, infatti, perché io sono arrivata a Shanghai con uno spirito tranquillo, perché ho detto, tanto qua non posso fare niente di che, mi cerco di divertirmi, do il meglio, il massimo quello che posso fare, e mi allenavo ancora, poi avevo un da fare con questo polsino che ogni 10 minuti dovevano rifarmi la fascia e usa quell'altro, quello più piccolo. Nel frattempo ho fatto delle lastre per vedere se migliorava o peggiorava il polso, insomma ero molto molto distratta da questi acciacchi che avevo, però mi hanno aiutato perché non ero così tesa e nervosa come se fossi in forma appunto perfetta e che mi giocavo qualcosa di pesante, quindi è stato un bene quello. Tutt'altra tensione 2 anni prima a Roma, eh? A Roma eravate diventate un po' delle idole, non si poteva camminare per quel villaggio al Foro Italico che vi saltano addosso 100 tifosi. Sì, a parte quello, poi appunto erano venuti amici da Bolzano, insomma striscioni, non ero abituata a tutta quella roba e lì ho sofferto tanto, cioè proprio stata proprio male fisicamente anche perché mi si era chiuso lo stomaco e tutto, quindi non, sotto quel punto di vista non è stata una bella esperienza. Poi ovviamente salire sul podio in casa un argento, caspita. Sì. E senti, adesso la strada verso Londra, quarta Olimpiade, sono 4 mondiali tra l'altro che consecutivamente sali sul podio iridato. Sei superstiziosa perché questo numero ritorna? No, beh, ogni tanto sì, sono superstiziosa, ma delle cavolate mie che mi... Meglio non svelare, diciamo, per scaramanzia, no? No, niente di che, insomma. Però sì, è vero, sulla carta sono, diciamo, tra le 3-4 più forti. Comunque un'Olimpiade è sempre una gara a sé e non si sa mai quello che succede, come arrivi, perché ognuno può reagire veramente in un modo diverso e puoi avere belle o cattive sorprese, quindi è una gara a sé. Senti, con Francesca come lo state preparando questo cammino? Abbiamo iniziato già presto ad allenarci e lei addirittura già un po' prima di me, perché lei deve qualificarsi adesso entro febbraio per la Coppa del Mondo. Io fortunatamente sono già qualificata dai 3 metri e a febbraio invece dobbiamo qualificarci nel sincro. Quindi quest'anno abbiamo iniziato un po' prima e ovviamente un po' più seriamente del solito. E psicologicamente forse cerchiamo anche di non parlarne troppo, perché se inizi già adesso arrivi ad Cotto. agosto che sei finita. Però lei ha uno psicologo, io più o meno. Anche sotto l'aspetto psicologico è molto importante prepararsi al meglio, questo sicuro. Ecco, sei convinta della bontà di questo supporto psicologico? Diciamo che anche le figure del mental trainer, nello sport di alto livello si sta sempre più diffondendo, no? Qualcuno viene in mente. Carolina Kostner a un certo punto ha rotto questo rapporto, ha detto riesco a far da me. Infatti è molto soggettiva la cosa, perché ci sono persone che hanno problemi evidenti, che proprio, che ne so, in allenamento danno il 100% e in gara ne danno il 50%. E lì per uno psicologo è più facile lavorarci, perché sai qual è il problema. Però appunto ci sono anche persone che io ho la fortuna che fino adesso più o meno sono il contrario: in allenamento non mi danno un euro e in gara fino adesso sono sempre riuscita a tirar fuori qualcosa di più. Però è una cosa che secondo me non è che si impara tanto, è una cosa un po' innata. E io ultimamente avevo lavorato con uno psicologo perché negli ultimi anni, sentendo più pressione, mi rendevo conto che pativo troppo la tensione, la gara. Però non è facile trovare la formula e dire stai tranquilla e basta. Questa è una cosa che capita, penso, a tutti gli atleti, e o riesci a tenerla a bada la tensione o no. Senti, ma mi incuriosisce anche questo tuo impegno, usciamo un attimo dalla piscina come testimonial per la sicurezza stradale. Tra l'altro, se non sbaglio, era proprio un impegno che era partito a Roma, nel Roma 2009. Ecco, come mai questa scelta e qual è il messaggio che vuoi far passare? Poi, paradosso e sfiga, capita proprio a te l'incidente in motorino, ma insomma. Una barzelletta adesso, però no, me l'avevano chiesto di farlo, mi sembrava una cosa carina. È una cosa molto importante, soprattutto in macchina, era anche riferito insomma, di non bere mentre sei al volante, queste cose qua. Quindi se si può, insomma, promuovere qualcosa di positivo, si fa. Senti, sei in corsa pure te per questo ruolo di portabandiera, visto che non si sa a chi darla. Come Non l'hai vista credo, no. un po' questo dibattito, su cui poi molti saranno un po', forse anche un po' ricamato? Sì, ma non ha detto una cosa sbagliata la Pellegrini, se stiamo parlando di quello, forse è il modo in cui l'ha detto, però forse anch'io non l'avrei fatta se avessi avuto la gara il giorno dopo, perché tu alla fine vai lì per quello. È un impegno veramente troppo faticoso stare 8 ore in piedi, perché le ho fatte anch'io le cerimonie d'apertura e il giorno dopo sei distrutto, perché per carità è un'esperienza che ti rimane tutta la vita ed è giusto farlo, però devi vedere cos'è più importante. Anche perché Però poi fai la cerimonia e sono applausi, arrivi quarta e sono ammazzate sui giornali, no? esatto. Quindi no, io credo che anche una Vezzali, una Josefa Idem, cioè sono tutte grandissime atlete che hanno vinto sicuramente di più della Pellegrini, e sarebbe giusto se le portassero loro, quindi. Hai nominato due grandissime campionesse dello sport in rosa. Allora, a Londra 2012 pensi che ci sarà il sorpasso nel medagliere? A Pechino c'è stato un pareggio delle medaglie d'oro tra uomini e donne. Sarebbe la prima edizione? È uno sport sempre più rosa? Negli ultimi anni sembra di sì. Potrebbe essere che sia più rosa, potrebbe essere, sì. Ti chiedo ancora, tornando per un attimo in piscina, più difficile o più facile salire sul trampolino sapendo che lì giù poi c'è papà con quel cognome, con quella carriera, a valutarti, ad allenarti, ad aspettarti? Ma io non mi ha mai pesato il fatto che lui sia stato, insomma, che abbia segnato la storia, quindi cioè, io lo vedo sempre come mio papà e come un grande allenatore, ma non penso al fatto che ha fatto un sacco di Olimpiadi, vinto medaglie e tutto, quindi non è che siamo in competizione. Anche perché poi, insomma, magari a Londra. Un desiderio sulla strada verso Londra in campo sportivo, ma anche fuori, perché insomma, si pensa anche ad altro. Sì, ma io mi auguro di arrivare lì senza infortuni, serena, non troppo agitata, con la coscienza a posto di aver fatto il mio lavoro, tutto il possibile per appunto arrivare al traguardo e basta, che rimanga tutto così com'è, che va bene. Allora, è quello che ci auguriamo anche noi. Grazie Tania Cagnotto per essere stata ospite di Radio 24 e di A Bordo Campo. A Bordo Campo. Sicuramente qualcosa straordinario. Adesso non posso credere ancora perché sono ancora un po' in trance, ma qualcosa molto bello. Sì. Sicuramente la gara più difficile che nella mia carriera. Era il 12 febbraio del 2006, così Armin Zögler celebrava l'oro olimpico nello slittino conquistato alle Olimpiadi di Torino 2006 sulla pista di Cesana Parioli. Ebbene, 5 anni dopo, quella pista rischia ora di scomparire per gli elevati costi di gestione e perché quel capitale, di fatto quel capitale culturale e sportivo rappresentato da quella pista, non è stato valorizzato adeguatamente. È infatti di questi giorni la notizia che la Parco Olimpico SRL, la società pubblico-privata che gestisce la pista di Cesana, ha deciso di togliere di fatto le 48 tonnellate di ammoniaca che servono per mantenere il ghiaccio e quindi conseguentemente per mantenere in funzione la pista utilizzata da slittinisti, bobisti e atleti dello skeleton azzurro. E allora proviamo oggi a ragionare intorno a questa situazione così particolare con il nostro primo ospite Riccardo Andreoni, direttore della Parco Olimpico SRL. Allora, dottor Andreoni, ci aiuti a capire quali sono le criticità della pista di Cesana? La pista, l'impianto, per quanto sia un impianto sicuramente invidiato un po' in tutto il mondo, è un impianto che è estremamente costoso e non remunerativo. È un impianto che costa da gestire circa 800-900 mila euro l'anno a riposo. E quindi con l'apertura e con l'organizzazione degli eventi sportivi, come è stato lo scorso inverno, ancora di più, e che non rende perché non ha introiti, non ha sponsorizzazioni, non ha biglietteria e quindi difficilmente può resistere all'interno di un'ottica privatistica orientata al reddito. Quindi o esiste un interesse pubblico affinché l'impianto continui a vivere e continui a prosperare come è stato in questi ultimi anni, oppure evidentemente non si può chiedere a un privato di fare uno sforzo di questo genere, di queste proporzioni. Quali possono essere le attività che rendano remunerativa questa pista? I metodi potrebbero esserci se però la pista fosse stata costruita in maniera diversa. Questa è una pista che è stata costruita con esposizione a sud, quindi richiede uno sforzo maggiore dal punto di vista economico per fare il ghiaccio e per mantenere il ghiaccio, quindi ha dei costi maggiori rispetto ad altre. Io conosco per esempio la pista di La Plagne in Francia che è costruita vicino a un club Mediterraneo e quindi può operare anche per i turisti che però sono già presenti in loco e non devono arrivarci con il taxi bob. Anche noi abbiamo il taxi bob, lo operiamo ma non riusciremo mai, anche lavorando 24 ore al giorno, a far pagare a un numero elevato di pubblico una cifra che si aggira intorno agli 80-90 euro per un minuto e mezzo di discesa. Quale potrebbe essere un piano B? Qualcuno nei giorni scorsi, o anzi da mesi se ne parla in realtà, che Cesana potrebbe essere, o a questo punto poteva essere anche, o potrebbe tornare ad essere, il punto di riferimento intorno al quale creare una sorta di Coverciano delle Nevi. Sì, se ne è parlato molto, soprattutto qua in Piemonte. Finora però non abbiamo visto nessun gesto concreto, tante buone intenzioni, sicuramente ottime sulla carta, però poi alla fine, quando si tratta di mettersi giù a studiare un piano, anche da un punto di vista economico, di sostenibilità, non si è andato mai oltre quelle che sono le buone intenzioni. Quindi, qualora ci fosse un piano concreto, noi l'abbiamo sollecitato molto in questi ultimi mesi, anche agli enti locali, al Comune di Cesana, abbiamo cercato di avere delle risposte, ripeto, concrete. Queste risposte finora non sono arrivate, non ce la sentiamo più di rinviare, perché a noi mantenere ogni mese di mantenimento dell'ammoniaca tra la gestione dell'ammoniaca stessa, la gestione dei sistemi di allarme, la gestione della vigilanza ci costa tra i 25 e i 30 mila euro. Grazie a Riccardo Andreoni, direttore della Parco Olimpico SRL. Ci ha raggiunto in collegamento telefonico il nostro secondo ospite, Ivo Ferriani, presidente della Federazione Mondiale Bob e Sport Manager ai Giochi Olimpici di Torino 2006. Benvenuto a Bordo Campo, dottor Ferriani. Grazie a voi, grazie. Presidente, allora, a Cesana abbiamo vissuto le emozioni delle Olimpiadi di Torino 2006, su tutti l'oreo di Armin Zögler, adesso pista che rischia di scomparire. Cosa sta succedendo? Spero veramente questo capitale sportivo, tecnico, culturale, perché poi alla fine abbiamo creato con le Olimpiadi qualcosa di unico, non venga perso. Però bisogna sicuramente fare una programmazione di almeno 4 anni e sviluppare molto più la parte commerciale turistica, quindi una proiezione ad almeno 4 anni può ridurre, se si dimentica, i costi e aumentare la parte. Un esempio classico per noi è la pista di Innsbruck, dove l'eredità olimpica, della doppia eredità olimpica, permette loro oggi di far lavorare i loro impianti al 100%, anzi organizzeranno adesso le Olimpiadi giovanili a gennaio, e questa è la prova che una buona gestione coordinata e con obiettivi a lungo termine può portare anche questi impianti ad essere sostenibili a livello economico. Noi dobbiamo mantenere viva la montagna, e si tiene viva anche con il lavoro, e la pista può portare del lavoro. La storia travagliata della pista olimpica di Cesana ci porta a riflettere più in generale su quella che è la situazione dell'impiantistica sportiva italiana, soprattutto a livello di sport di base. Allora ritroviamo un caro amico di A Bordo Campo, il presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini. Ben ritrovato, presidente. Grazie e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, presidente, soffre Cesana come eredità olimpica, ma non si può dire che lo sport di base italiano stia meglio. Dal suo punto di vista, da quello del CSI, che è un grande movimento di sport di base, qual è la situazione? Beh, devo dire che come Centro Sportivo Italiano, per essere sincero, noi paghiamo un po' un ritardo storico in termini di impiantistica sportiva. Da sempre, da lontano 1944, siamo impegnati con grande entusiasmo sul tema dell'educazione attraverso lo sport, educare i ragazzi come grande sfida, come grande partita che non possiamo permetterci di perdere. Da questo punto di vista abbiamo sempre un po' trascurato, per esempio, l'impiantistica nelle parrocchie e negli oratori. Invece oggi è quanto mai importante il fatto che i ragazzi possano usufruire di impianti prima di tutto sicuri, e questo è bene ricordare che qualche volta nell'impiantistica di base non è così. Ci sono impianti che hanno problemi proprio di sicurezza, di messa a norma e dintorni. E poi di impianti che siano moderni, e per moderni intendo, a noi piace dirla così, non parliamo più di impianti ma parliamo di luoghi educativi, cioè di luoghi accoglienti, anche belli, con delle strutture dignitose, soddisfacenti, ma soprattutto che si trasformino in strutture capaci di accogliere, di creare, come dire, un contesto molto favorevole all'educazione dei ragazzi. Ci stiamo impegnando molto sull'impiantistica degli oratori e delle parrocchie, e poi chiaramente c'è tutta quell'impiantistica di quartiere, di periferia, dei piccoli comuni, insomma delle piccole realtà,